A Galeria, intanto, i sequestrati politici e l'unico refrattarius vengono trasferiti nelle celle di massima sicurezza e isolamento che si trovano nella parte che spezza a metà il tunnel fognario. In quella determinata zona non ci sono tombini che la collegano con la città e questo la rende una zona sicura da possibili attacchi esterni che potrebbe essere l'unico pericolo per le fogne detentive, dato che l'evasione è praticamente impossibile. L'Erit ha dato ordine di piantonare le singole celle durante la notte e di lasciare interrottamente la luce accesa alle stesse celle perché i sequestrati devono essere visibili sempre. Seppur celle di massima sicurezza sono un pochino più grandi di quelle normali, che sono delle nicchiette ai lati del tunnel fognario. Queste hanno una grandezza di 2,5 metri di larghezza, in cui ci entrano uno di fianco all'altro la branda a castello e la tazza d'eccesso, separati da un muro poco più alto di una persona, per 3 metri di lunghezza. In questo spazio, tolto quello di letto e tazza, ci sono anche un lavandino, un tavolo e una sedia. La luce è data da una vecchia plafoniera a neon di vecchia costruzione e le mura sono piene di veri e propri geroglifici lasciati dai detenuti passati in quelle celle negli anni. Sulla parete dove poggia lateralmente il cuscino della branda di Valerie, unico refrattario della galleria, c'è un disegno che raffigura un uomo grande e muscoloso, molto simile ad un indiano, che è seduto a terra al centro della cella, di spalle alla finestra con le sbarre, con le gambe incrociate. Valerie ogni notte si addormenta fissando quel disegno cercando di capirne il significato. Perché autoraffigurarsi in quel modo? Cosa pensa, cosa fa quell'uomo seduto a terra con le gambe incrociate? Queste sono le domande che incessantemente Valerie si pone ogni notte mentre guarda molto attentamente quel geroglifico, quasi come voler entrarci dentro. È la sera del 31 dicembre e sono passate da poco le 20. Nelle fogne c'è più sorveglianza del solito perché l'Erit non vuole minimamente che si ripeta un altro giorno di festa a nero. Nei corridoi di galleria rimbombano i petardi che la popolazione zombie fa esplodere in superficie prima di sedersi di nuovo a tavola e prendendosi in giro ancora una volta che tutto vada bene, che tutto sia normale, facendo finta che quello che sta accadendo fuori dalle porte delle loro case siano cose che non gli riguardano perché loro, o almeno una buona parte, si ritiene buon cittadino che rispetta le leggi. Non vi è cosa più assurda di sentir dire certe puttanate. Essi sono la maggior parte degli zombie, quelli a cui il cervello è stato tolto fin dalla nascita e sostituito con un processore in cui vi sono inseriti dei dati tramite linee di comando ordini per il buon funzionamento. Questi sono quelli che desiderano che chi si sottrae agli ordini cercando di modificare il proprio sistema operativo, dei delinquenti degni di galleria. Essi si definiscono buoni cittadini perché ogni mattina sono costretti a svegliarsi presto per recarsi al lavoro, che pagano tutto il conto presentato dai governanti e quindi restituendo buona parte di quello che guadagnano. Quelli che la domenica si recano in chiesa per confessare i peccati di tutta la settimana e che insieme ai preti sputano in faccia ai poveri attraverso lo spreco dei beni. Essi sono più maltrattati di quelli che loro stessi definiscono delinquenti perché sono stessi loro a piegare la schiena per farsi frustrare dai governanti. Questi sono il superfluo, l'inutile, la miseria, la vite piantata da cui i governanti tolgono ad uno gli acini delle pigne. L'arroganza del buon servo, le pecore, i soldatini di piombo da mettere su una mensola, l'esempio di una vita non vita, senza un minimo di dignità. Ecco perché sono zombie, ma a differenza di quelli dei film non hanno i denti per mordere. Intanto nel tunnel rifugio i refrattarius sembrano arrivati ad una soluzione. Prendendo per buona l'ultima proposta e seguendo la storia dei vecchi briganti che popolavano le montagne di quei luoghi secoli prima, decidono di farsi riparare dalla coperta di alberi del Vesuvio. to clamp down with your iron fist. Drugs became conveniently available for all the kids. Following the right movement to clamp down with your iron fist. Drugs became conveniently available for all the kids. My crack, my smack, my bitch right here in Hollywood. Nearly 2 million Americans are incarcerated in the prison system of the U.S. They're trying to build a prison. They're trying to build a prison. Sell your prisons, you don't even flinch. All our taxes paying for your wars against the new non-rich. Minor drug offenders, sell your prisons, you don't even flinch. All our taxes paying for your wars against the new non-rich. My crack, my smack, my bitch right here in Hollywood. The percentage of Americans in the prison system has doubled since 1985. They're trying to build a prison. They're trying to build a prison. They're trying to build a prison. They're trying to build a prison. For you and me to live in. Another prison system. Another prison system. Another prison system. For you and me. For you and me. Oh baby, you and me. Boy. Boy. While research and successful drug policy shows that treatment should be increased. Boy. And law enforcement decreased while abolishing mandatory minimum sentences. Boy. While research and successful drug policy shows that treatment should be increased. And law enforcement decreased while abolishing mandatory minimum sentences. Utilizing drugs to pay for secret wars around the world. Drugs are now your global policy. Now you police the globe. My crack, my smack, my bitch right here in Hollywood. Drug money's used to rig elections and train brutal corporate-sponsored dictators around the world. They're trying to build a prison. They're trying to build a prison. They're trying to build a prison. They're trying to build a prison. For you and me to live in. Questi erano System of Down, che venivano giusto dopo la lettura di Nal 013, lettura che da un po' di tempo a questa parte si fa ogni lunedì nella diretta d'azione, che ha come contenuti la controinformazione e la lettura. Stiamo leggendo, per quanto riguarda la lettura, Tortuga di Valerio Evangelisti, continuando così la saga sui pirati dello stesso autore. Abbiamo letto in precedenza Vera Cruz. Siamo arrivati già oggi alla terza o la quarta, se ricordo bene, per lettura di Tortuga. Allora, ricordiamo gli indirizzi utili per radiazione: radiaazione @autistici.org per chi vuole mandare scritti, comunicati, consigli sui libri da leggere il lunedì, anche critiche, anche vaffanculo, vanno bene, insomma tutto quello che pensate possa andare bene e possa essere postato sul sito di radiazione, sito di radiazione che non è più blog, lo ricordo. C'è stato il cambiamento la settimana scorsa, già è stata fatta una diretta con il sito, quindi invece del vecchio blog ora esiste radiazione.org, https.radiazione.org, dove potete, come in passato sull'altro blog, potete leggere la controinformazione aggiornata. Ci sono bene o male le stesse, per il momento si è lasciato tutto uguale rispetto al blog vecchio, con le stesse pagine, le stesse categorie, quindi la categoria ascoltare dirette d'azione per ascoltare i podcast delle vecchie dirette d'azione, oppure la pagina con i download dove potete scaricare libri, opuscoli, manifesti e quant'altro. Sulla pagina del nuovo sito c'è anche il lettore dove potete ascoltare la radio, quindi non c'è più bisogno di aprire due pagine per tenere sito e radio aperto, quindi già dal sito c'è il lettore sulla sinistra, ci cliccate, cliccate su play e poi ascoltate direttamente la diretta d'azione il lunedì e il venerdì dalle 17 alle 19. Poi sotto ci sono le varie indicazioni nel caso non vi appare il lettore o come fare, altrimenti il classico metodo: sotto l'articolo che viene pubblicato ogni giorno della diretta d'azione, cliccate sul banner e vi si apre la pagina dello streaming radio. Questo era per il sito e per la radio, che abbiamo detto già da un paio di settimane ha cambiato anche server, ci siamo spostati su anarchia.net, quindi per voi non cambia un cazzo, la radio la ascoltate cioè, sempre tramite indirizzi e reindirizzamenti che vi facciamo noi. Ora ci ascoltiamo un brano di Running Wild che introduce la lettura di oggi, non a caso si chiama Tortuga Bay, e quindi poi subito dopo il brano si inizia con la lettura di Tortuga di Valerio Evangelisti. Es gibt da so eine kleine Insel, die hat die Form einer Schildkröte. Und das heißt in Spanisch Tortuga. Tortuga! Tortuga! Tortuga! Tortuga Bay! Yeah. da es hier wirklich scheißkalt ist. Una sehr kleine Insel, non ci ha detto in, per introdurre il pezzo Tortuga Bay, il cantante dei Running Wild, che mi dicono essere anche l'ex cantante degli Iron Maiden, ma oddio no. Così speriamo che sia. Torniamo oggi lunedì 3 febbraio a rileggere Tortuga di Valerio Evangelisti e siamo arrivati dove siamo arrivati? Siamo arrivati dopo che il nostro, diciamo, personaggio principale che seguiamo in questa narrazione, che è Rogerio dos Campos, un ex gesuita imbarcato su una nave spagnola assaltata dai pirati di Lorenzillo, e lui non è fatto prigioniero ma si arruola tra i fratelli della Filibusto, nella fratellanza della Filibusto, e comincia un'avventura che fino adesso ci ha portato ad assaltare un galeone spagnolo, a massacrare gli spagnoli che hanno tentato una scarsa difesa, e poi abbiamo attraversato anche una tempesta molto significativa, perché la nave Neptune comandata da Lorenzillo ha riportato una serie di danni che ne proibiscono la navigazione, quindi adesso i pirati sono alla ricerca di una isola dove ammarrare la loro nave, dove atterrare la loro nave e carenarla, ovvero sia rimetterla in grado di navigare. Questa isola si chiama la Isla de los Pinos, un'altra kleine Insel. La carenatura di un brigantino era un'operazione difficile e faticosissima. Si trattava di trainare la nave sulla terraferma a forza di funi e poi rovesciarla su un fianco, poggiata su travi. Dopo avevano accesso al veliero solo il maestro d'ascia, se c'era come nel caso del Neptune, i carpentieri e gli aiutanti da loro designati. Aveva inizio un lavoro che poteva durare settimane, in cui si tappava con cura ogni falla, si strappavano le incrostazioni dei molluschi, si rafforzavano alberi e timone e, per concludere, si ridipingeva l'intero scafo. Durante quel tempo erano di fatto il maestro d'ascia e i carpentieri ad avere il comando. Il capitano non era autorizzato a visitare il cantiere senza il loro permesso. Nel frattempo i pirati si organizzavano a terra in tende e capannucce. Se c'era già abbastanza bottino da dividere, si approfittava della sosta per procedere alla spartizione. Fu quello il caso del Neptune, arenato in un tratto sabbioso della costa della Isla de los Pinos. Lorenzillo chiamò a raccolta l'intera ciurma su un lembo della spiaggia, all'ombra di una foresta esuberante di palme da vino. Si divide! La voce si propagò in un attimo. Poco più a sud di Cuba il caldo era terribile, eppure corsero tutti, senza badare al sudore, nel luogo del raduno. Hai mai visto un posto più bello? Chiese Le Bon, di solito non incline alle romanticherie, a Rogerio. Sabbie bianchissime, mare che si confonde con il cielo, ombra fresca, se il paradiso esiste. Certo deve somigliare a quest'isola. Sono d'accordo, replicò Rogerio, ma non ci vive nessuno. Oh sì, prima o poi gli abitanti li vedrai sbucare dalla selva. In questo momento ci stanno spiando per assicurarsi che non siamo spagnoli. Ne hanno patite troppe da quelli. Con la Filibusta invece sono in rapporti cordiali. Ma parli di indigeni? Sì, a volte qualcuno di loro viene a combattere con noi e spesso ci affittano le loro donne, ma lo vedrai tu stesso. Nella radura scelta per la spartizione ormai era accorsa più o meno tutta la ciurma, a parte chi lavorava alla carena. Gli ultimi ad arrivare furono Lorenzillo, Calois e qualche passo indietro De Lusson. Bamba, lo schiavo, seguiva con un cofano pesante tra le braccia. Uscivano da capanne messe in piedi in un giorno, con pezzi di alberatura, tronchi, canne, pennoni di rispetto e ciarpame vario. Solide, però, e circondate da una palizzata che le faceva somigliare ad un fortino. Le tende dei marinai più modeste erano disposte tutto intorno. Lorenzillo, che indossava la rendicote dorata delle grandi occasioni e portava al collo un foulard rosso, venne subito al dunque. Fratelli della costa, siamo in mare da mesi. Non si può dire che il bilancio della crociera sia stato entusiasmante. Sottraiamo subito il 10% destinato al signor governatore della Tortuga. Come diavolo si chiama quello nuovo? Chiese a Calois. De Chiussi, se ho capito bene, rispose l'ufficiale. Ah già, De Chiussi, Beh, non è che io muoia dalla voglia di vederlo, dato il racconto degli inglesi, però la sua quota gli spetta. Il resto, compreso il maledetto chinino del re dei Reyes, un po' di zucchero del Seamaster, 47 libbre d'oro e circa 20.000 scudi in contanti, più i bottini di alcuni mesi fa sul Nuestra Signora de Candelaria e sul San Francisco, oggi ribattezzato Neptune, fa all'incirca 250 pezzi da 8 a testa. Moneta più, moneta meno, non è molto, ma dovrete accontentarvi. «E la parte per i mutilati?» chiese uno degli astanti, un normanno magro magro soprannominato Le Squelette. «L'ho già sottratta, i mutilati sono 7, visto che gli altri sono morti. Roland Lerat, che è rimasto cieco, avrà i 600 scudi pattuiti. Pepe Canseco, che ha perso il braccio sinistro, 100. I restanti 5 sono rimasti privi di alcune dita e riceveranno un piccolo compenso. Tolta la quota che spetta a me, quella di 200 scudi per il dottor De Lussan e un obolo alle vedove dei 39 caduti, resta proprio la cifra che avevo detto io, 250 pezzi da 8. Vi fu un mormorio di delusione, però anche di accettazione. Le Bon spiegò a Rogerio questa reazione contraddittoria. Ci si è abituati troppo bene dopo la presa di Veracruz. Allora furono 800 pezzi da 8 a testa e le puttane i tavernieri della Tortuga di Port Royal fecero fortuna. Adesso il piatto non è così ricco, tuttavia ogni avventuriero sa che la Grande Graf non inganna mai sul bottino e distribuisce ciò che c'è, tutto il contrario di Henry Morgan. Sento spesso parlare male di questo Morgan. È stato prima pirata e successivamente governatore della Giamaica, se non sbaglio. Ma cosa ha fatto per meritare tanto disprezzo? Le Bon sputò nella sabbia un grumo catarroso, poi portò alla bocca la pipa come se volesse incrementare la consistenza dei suoi sputacchi. Da governatore ha dato la caccia ai suoi ex compagni. Da filibustieri nascondeva la quantità esatta del malloppo per ingannare i fratelli e ingrossare la propria spettanza. Un verme! Spero che nel frattempo sia crepato. Intanto Lorenzino chiedeva: «Tutti d'accordo? Ci sono obiezioni?» E notò una mano destra alzata da chi aveva perduto l'altra. Nelle ultime file, circa 80 uomini sopravvissuti. «Parla, Pepe, Pepe Canseco, che cos'è che vuoi dirmi?» E lo spagnolo rispose: «Secondo il contratto d'ingaggio, capitano, io per il danno che ho subito ho diritto a 100 scudi o a uno schiavo.» «Sì, e avrai 200 scudi. Io però voglio uno schiavo. Quelli che avevamo sono annegati durante l'abbordaggio del Seamaster, lo sai bene.» E allora Pepe portò alle labbra l'eterna pipa sempre accesa e ne masticò cannello e bocchino già segnati dai suoi denti, diede un tiro come per farsi coraggio e disse: «Capitano, una schiava è viva, l'ho scoperto solo quando siamo approdati qui e abbiamo lasciato la nave. In questo momento è nascosto in una capanna accanto alla vostra. È bella e flessuosa. Se è la vostra amante, mi rassegno e ve la lascio. Ma se non lo è, la voglio, ne ho diritto.» Lorenzillo fu chiaramente colto di sorpresa, lanciò un'occhiata a Calloa, che forse riteneva responsabile della delazione. L'ufficiale allargò le braccia come a dire che non c'entrava. Il colorito scuro di Lorenzillo si era un poco sbiancato, come per adeguarsi agli occhi chiari e ai capelli biondi. Il capitano allora parlò con un'esitazione in lui poco consueta. «Vedi, Pepe, è vero, una schiava si è salvata. Non l'ho messa tra i premi perché è il tipo giusto per De Grammoni. La vorrei regalare, ma non preoccuparti, avrai i 200 scudi.» «Voglio la schiava, mi capitan!» Pepe additò con la pipa il moncherino del braccio sinistro. «Ne ho diritto!» è vero, mormorarono in molti. Quelli erano i patti.» Rogerio, pur non essendo riuscito a seguire il dialogo parola per parola, tanto era agitato, odiò Pepe con tutte le sue forze, l'intera ciurma e il capitano, la cui fermezza vacillava, e le ragioni del suo sentimento non gli erano più oscure. Avvertiva un legame con la schiava, forse perché aveva contribuito a salvarla. Non si trattava certo di amore, lei gli pareva una sorta di passerino caduto dal nido. Vedere la preda di avvoltoi lo addolorava. Lorenzillo batté un piede sul suolo sabbioso. «E va bene, porco demonio, Pepe, la schiava è tua, però dovrò riferire a De Grammone che gli hai sottratto un regalo, sai cosa significa? Correrò il rischio.» Pepe sfavillava di gioia e sicurezza di sé. «La schiava è troppo bello, mai avute simili donne in vita mia.» Lorenzillo aggrottò le sopracciglia. Bada che dovrei aspettare di essere alla tortuga, non sono ammessi rapporti con le femmine a bordo, e nemmeno su quest'isola finché il Neptune non sarà carenato. Dovrai contentarti delle indigene a terra o dei mozzi in mare. Parola, mio capitano Pepper al settimo cielo. E va bene, giunti alla tortuga avrai la tua negra. Risolto il problema, proseguirono le ripartizioni. Rogerio vi fu ammesso, pur essendo stato imbarcato solo alla fine della crociera, che, a quanto poté capire, durava ormai da diversi mesi. Ebbe 50 scudi di compenso, più altri 50 per aver calmato il vento, cosa di cui tutti parevano convinti. Lui non prestava attenzione e non partecipava alle alzate di mano con cui i pirati manifestavano il loro consenso alle quote decise da Lorenzillo. Nervosissimo, abbandonò l'assemblea e si diresse verso il palmeto. Prese a incidere i tronchi con la sciabola senza che ciò riuscisse a calmarlo. Dalle incisioni scaturivano a volte fiotte di liquido biancastro simili al latte annacquato. D'un tratto Ruggero sussultò. Da dietro un tronco era apparso un uomo nudo, basso e magro, però muscoloso. Aveva al collo un monile fatto di canini di cinghiale. Era il suo unico abbigliamento. Il cranio era curioso, gonfio e di forma ovale, come se lo avessero stretto con un laccio fin dall'infanzia. Altri selvaggi apparvero dietro di lui e avevano il petto striato da tintura rossa. Per quanto gli sconosciuti fossero disarmati e apparissero più incuriositi che ostili, Rogerio ne ebbe un terrore folle. Inditreggiò di qualche passo e poi corse verso i compagni. La spartizione era intanto terminata e l'assemblea si stava sciogliendo. Prima che Rogerio potesse lanciare l'allarme, dell'usano intercettò e gli sorrise. «Immagino che avete visto», gli disse senza scomporsi e si girò. «Capitano, sono arrivati gli Arawakos!» «Ah, bene!» rispose Lorenzillo senza particolare emozione. «Calua, vai a prendere i regali!» Intanto gli indigeni erano usciti sulla radura. Erano una quindicina, fra cui due donne, anche se nude a parte un perizoma attorno ai fianchi sotto l'addome prominente. Gli armati di archi, frecce e corte lance erano solo tre, però non avevano sguardi bellicosi. Da ultimo incideva un vecchio grinzoso adorno di un copricapo di piume variopinte. Lorenzillo gettò il mantello sulla spalla, si levò il cappello e andò incontro a nuovi venuti con il garbo già riservato ai prigionieri inglesi. «Amici», disse nel suo orribile spagnolo, «sono molto contento di rivedervi. In particolare mi onora incontrare una volta di più il signor Cacique». Si inchinò di fronte al vecchio. «Venite al nostro campo, abbiamo regali da darvi e affari da trattare». Rogero aveva superato lo spavento iniziale. De Lussan fermò al suo fianco e gli disse: «Graziosi, no, questi indianini?» «Li credevo più aggressivi», rispose il portoghese. «In realtà sembrano innocui». «Avete detto bene, sembrano. Seguono i loro istinti naturali e sono capaci di crudeltà tremende. Tanto per dirvene una, sono cannibali». Rogerio trasalì. Stava per dire qualcosa, ma il chirurgo lo prevenne e gli fece l'occhiolino. «Amico mio, perché non sfruttate l'occasione? Per un'ora almeno qui si scambieranno cianfrusaglie contro preziosi e vino di Spagna contro vino di agave. La schiava che vi sta a cuore è chiusa nella capanna di fianco a quella di Lorenzillo. Perché non ne approfittate per vederla? Temo che in seguito vi capiterà raramente». Rogerio farfugliò una protesta. «Non mi sta a cuore!» Ma l'espressione sardonica dell'altro gli spense la frase sulle labbra, tacque e corse verso l'accampamento dei pirati a fianco del Neptune ribaltato. The next round was for free. A man was sitting next to me. His hair was long and grey. He lost one night, one wooden leg, and he had much to say. He smoked a lot of cigarettes. His voice was rough and deep. So many scars upon his face. His skin was thick and weak. He was he. So much booze and so much gold. kitchen door, my head will sink in weird. His words remain inside my mind, so cruel he loved and feared. He was the old buccaneer, and he said, my friend, come on over, land him here. He was the old buccaneer, my friend, come on over, land him here. He was the old buccaneer, and he said, my friend, questi erano Fiddles Green con il brano Buccaneer. Ora, dopo la prima lettura di Tortuga di Valerio Evangelisti, si passa alla controinformazione, controinformazione che riguarda la Grecia, dove c'è una chiamata di solidarietà fuori al tribunale di Anfissa. Leggiamo il testo tradotto dal manifesto, che potete trovare anche sul sito di Radiazione. Il testo che dice: quando la primavera iniziate al carcere di Malandrino, migliaia di prigionieri sbucarono sui tetti, nei corridoi bui e nelle ale fetidi di quasi ogni carcere del territorio greco. Una scintilla fu sufficiente per loro per scrollarsi di dosso l'oppressione quotidiana, umiliazioni e mancanza di libertà assolutamente delimitata, come l'inferno e il grande fulmine, attraversando anche temporaneamente percorsi di liberazione, di resistenza e di lotta. Il fumo nero dei materassi bruciati, le celle del carcere danneggiate, l'infrastruttura fisica delle carceri spaccata, ma anche nubi di gas lacrimogeni, una pioggia di proiettili di plastica e pestaggi spietati con i manganelli di secondini e di squadroni antisommossa testimoniano le battaglie che hanno avuto luogo. Tuttavia la vendetta del potere verso chi ha sfidato il suo dominio non si è limitata ai corpi spezzati e feriti di detenuti o le sanzioni disciplinari inflitte su di loro all'interno del buco infernale. Nel corso degli anni, fino ad oggi, il potere ha trascinato decine di prigionieri ribelli ai tribunali civili, accusandoli di vari reati che hanno avuto luogo durante la mobilitazione combattenti di quei giorni in aprile 2007. Dopo quasi 7 anni, ad alcuni dei rivoltosi del carcere di Malandrino è stato chiesto di pagare quei danni, incredibilmente belli e forti giorni e notti, quando la lotta ha visto la primavera senza la lente dei fumanti di muri e filo spinato. La solidarietà è la nostra arma. Vi trovo presso il tribunale di Anfissa, 11 febbraio 2014, alle ore 9. Il manifesto è firmato Anarchici. E questa era per quanto riguarda la prima controinformazione di oggi. Ora ci ascoltiamo un brano di Lard, Generation Exclude, e poi dopo si ritorna qui con la lettura di Valerio Evangelisti con Tortuga. Give me more all day, all night. action. Rogerio entrò nella capanna afosa della prigioniera con una certa emozione. Si attendeva di trovarla in catene e invece era libera, accucciata su una stuoia. Stringeva le gambe tra gli avambracci, ma non era per proteggere la sua nudità, che squarci di sole penetrati da teli, canne e palette rivelavano. Probabilmente la sua era una posa semplice, come una reazione alla noia e alla paura. Rogerio era già stato colpito dalla bellezza della giovane negra quando l'aveva vista boccheggiante, prossima all'agonia. La sensazione fu più forte adesso, che appariva meno sofferente. Le si accostò lentamente per non spaventarla troppo. Lei spalancò gli occhi, il labbro inferiore le tremava. Non avere timore, disse Rogerio con voce sommessa, e vide che la ragazza si ritraeva e si accoccolò a debita distanza per dimostrarle che non aveva cattive intenzioni. Vengo a controllare come stai, ti senti bene, ti danno da mangiare abbastanza? L'ultima domanda era incongrua. In un angolo della capanna c'era un vassoio colmo di frutta, un piattino accanto conteneva carapaci svuotati appartenuti a gamberi e altri crostacei. La giovane donna godeva chiaramente di un trattamento migliore di quello riservato all'equipaggio del Neptune. Segno che Lorenzio formulava su di lei calcoli precisi, forse vanificati dalle pretese di Pepe Canseco. La schiava, che sembrava non aver inteso nulla, non rispose. Tuttavia la paura si attenuò un poco nei suoi occhi, liberò le ginocchia e si raddrizzò sulla stuoia. Rogerio, sempre più turbato, non sapeva come reagire. Le parole erano inutili, la schiava non le comprendeva. Pareva sensibile, sì, all'inflessione della voce. E il portoghese l'addolcì per quanto poté. «Io mi chiamo Rogerio, tu come ti chiami?» La ragazza non disse una parola, contemplava il portoghese come si guarda una creatura totalmente incomprensibile, forse minacciosa o forse no. Aveva occhi neri di taglio stranamente orientale, diversi da quelli lacrimosi che avevano colpito Rogerio al primo incontro. Lui non aveva mai fatto caso allo sguardo degli schiavi, anche perché di solito lo tenevano basso e, quando erano costretti a rialzarlo, appariva timido e vagante. Nelle pupille della donna c'è la timidezza, c'era, però si sommava alla curiosità. Rogerio gli afferrò un polso. Aveva intenzione di portarlo verso il proprio petto e di dire «Io, Rogerio, tu!» La schiava però si divincolò dalla stretta, gli occhi le sfavillarono, si rizzò in ginocchio sulla pedana come una belva pronta a saltare e scoprì i denti. Rogerio pensò ad una lince. Apparenza di grosso gatto, aggressività ferina, ne fu affascinato. Anche in lui esisteva qualcosa di simile che cercava di contenere e di celare. Morbidezza di superficie, indole tutta diversa. Un pensiero proibito per lui, che lo rimandava ai motivi dell'ignominiosa cacciata dalla compagnia di Gesù, cioè a un ricordo che aveva deciso di cancellare per sempre. A questo si sovrappose una considerazione peccaminosa. Se mai avrò una donna, deve essere questa. Una schiava, una negra, sì, era una vergogna anche solo concepire alcunché di simile, eppure la sua era una certezza, cui non riusciva a sottrarsi. Ma come procedere? Alzò le mani per dimostrare di non avere intenzioni aggressive. Lei lentamente si acquietò e tornò a sedersi a maggiore distanza. Lo guardò con occhi interrogativi come se attendesse la mossa successiva. «Io voglio aiutarti», disse Rogerio. Cercò mentalmente un gesto che esemplificasse il concetto, ma non gliene venne nessuno. Allora, con la mano destra si toccò il cuore, poi protese l'avambraccio come per trasmettere un messaggio d'affetto. «Ti ho salvata e mi sei cara, non permetterò che un bruto qualsiasi ti tocchi». Fu scrutato da occhi sempre più smarriti. La giovane meccanicamente imitò il cenno. Si toccò il petto e sporse la mano. Rogerio ne fu incantato. Non ebbe il tempo di godere della sua gioia. Una voce irritata, benché cortese, lo interpellò dalla soglia della capanna. «Sarei io il bruto qualsiasi, gesuita! Ti ricordo che la schiava mi spetta. Tu cosa fai qua?» Era Pepe Canseco. Lo spagnolo rinnegato stava con i pugni sui fianchi e tuttavia non aveva un atteggiamento realmente ostile. Forse glielo impedivano le buone maniere a cui era abituato. Di sicuro non dimostrava amicizia, tutt'altro. «Pepe, non equivocare», disse Rogerio conciliante. «Questa giovane l'ho salvata io, sono venuto solo a controllare che sia trattata bene. Ed è per questo che le prometti protezione. Togliti dai piedi, mezzo prete, ho voglia di fotterla, mordie. Sono stanco di culetti sporchi, di mocciosi. Te li lascio volentieri». Rogerio sguainò la sciabola. «Attento, spagnolo, chiedimi scusa o ti taglio la gola!» L'altro fu pronto a trarre con l'unica mano buona una pistola fra le quattro della sua bandoliera. Armò il cane. «Bada, gesuita, che ti faccio saltare il cervello!» Allora Rogerio rimise la sciabola nel fodro. Lo scontro era impari. Parlò in tono conciliante. «Pepe, è assurdo che ci scontriamo tra noi fratelli della costa. Non ho pretese sulla tua ricompensa. L'avevo visitata senza particolari intenzioni». Mentre diceva questo, Rogerio con la sinistra frugava sotto il corpetto, strinse le dita attorno al pugnale lunghissimo e affilato, detto Misericordia. Non appena Pepe avesse abbassato la pistola gli sarebbe balzato addosso e l'avrebbe sgozzato, e se non fosse riuscito a occultare il cadavere avrebbe fatto appello al diritto dei pirati. Lo stesso Lorenzi gli aveva detto che i rapporti con la schiava erano vietati fino alla tortuga. Stava per attuare il suo piano quando si udì distante un colpo di cannone e in simultanea le bonne si affacciò nella capanna. Ecco che vi scopo, cosa fate lì, fannulloni? È una flotta intera che ci sta attaccando. C'è il rischio che facciano a pezzi lo scafo del Neptune senza nemmeno approdare. La definizione di flotta era esagerata. Quando Rogerio uscì all'aperto dopo un saluto fugace alla schiava che non reagì, trovò l'intera spiaggia in allarme. I pirati correvano qui e là a cercare le armi riposte nelle capanne e nelle tende. Gli artiglieri spostavano a fatica i pezzi scaricati dal Neptune per volgerli al mare. Gli Arawakos, ora più numerosi e carichi di bigiotteria ottenuta in dono, osservavano quelle manovre e tentavano di capire quale fosse il nemico da combattere. Quel nemico era appena spuntato al largo e Rogerio sperimentò lo stesso brivido provato sul Rey de Reyes all'arrivo dei filibustieri. Un puntino all'orizzonte diventava una vela, ci si illudeva che avanzasse lentamente e invece ingrandiva rapidamente di proporzioni. Poi si scorgeva anche lo scafo e pian piano ogni dettaglio, finché si scopriva un veliero che correva sulle onde carico di uomini assetati di violenza e di rapina. Stavolta i velieri erano 5, 2 grandi e 3 piccoli. La nave più grossa, che precedeva la formazione, sparò una nuova cannonata e il proiettile si perse nell'acqua. Pepe era a fianco di Rogerio. L'ostilità di pochi istanti prima sembrava svanita. Ma perché sparano a vuoto? Chiese lo spagnolo. Fu Le Bon a rispondere. Me lo chiedo anch'io, non riesco a capire. Sentiamo il capitano. Lorenzillo, in piedi su una roccia prossima alla battigia, stava sporgendo il cannocchiale e lo udite a Calois. Tra breve circonderanno la rada, dobbiamo combattere, non c'è alternativa, non possiamo perdere il Neptune. E se ci ritirassimo all'interno dell'isola? Propose il primo ufficiale mentre osservava le navi in avvicinamento. È impraticabile. Poi ripeto, non dobbiamo abbandonare il Neptune, come torneremo a casa? Calò abbassò il cannocchiale. Quello che precede è di sicuro un brigantino, forse anche l'altro legno principale. Per il resto si tratta di sloop con un albero o due, da 150 a 300 uomini in tutto. Se li lasciamo sbarcare sono un osso duro. I sloop, imbarcazione con vele triangolari a bassa immersione di... e altre. Lorenzillo ebbe un sussulto, si rivolse agli uomini dispersi lungo la spiaggia a contemplare il mare. Basta con gli indugi, porco demonio, i bucanieri in prima fila, dietro questa roccia. Gli altri pronti dietro le capanne con moschetti e archibugi. Per sbarcare quelli hanno bisogno di scialuppe perché il fondale è basso. Ammazzateli via via che smontano. I pezzi sono pronti. Pronti, mio capitano, rispose un cannoniere spagnolo. E allora puntate sulle scialuppe non appena saranno presso la riva. Palle incatenate e mitraglia. Nessuno parla arawako. Le Bon si fece avanti. Solo qualche parola, mio capitano. E allora di a questi selvaggi che ancora una volta tornano gli spagnoli. Sanno ciò che li aspetta e nel loro interesse radunare i guerriglieri e combattere con noi. Rogerio, che aveva solo una sciabola, prese una delle due pistole che venivano distribuite. Armi moderne, a pietra focaia, con una rotella d'acciaio che faceva sprigionare le scintille. Prese anche un corno pieno di polvere da sparo, altra polvere già confezionata in pacchetti di carta. Del polverino da versare nella scodella di innesco e un sacchetto di palle. Per caricare le armi si portò dietro la carina del Neptune. Fu sorpreso nel vedere che i carpentieri e il maestro d'ascia continuavano a pennellare pece e catrame, malgrado la minaccia incombente. «Come sta la tua bella?» gli chiese John Barton facendogli l'occhiolino. «La mia? Capisci chi intendo? La schiava!» «Sta bene!» rispose Rogerio imbarazzato. «Sai che ti dico, amico, spettava a te, non a Pepe!» «Però non c'è niente da fare, la legge è legge!» «Eh già!» Rogerio stava concependo un piano per riavere ciò che gli era stato tolto. Era assurdo e molto doloroso e si applicava solo nel caso che fosse sopravvissuto, ipotesi improbabile, a fronte di un nemico 3 o 4 volte superiore di numero. Tuttavia, non vedeva alternative. I velieri avanzavano a grande velocità, spinti dal vento a favore. Si notava il solito formicolare di uomini sui ponti e sulle manovre. Le prue si alzavano e si abbassavano, sollevando spruzzi e getti di schiuma. D'improvviso Calloa, che sulla roccia spiava le navi in avvicinamento, lanciò un'esclamazione e abbassò il cannocchiale. «Capitano, ci giocherei il mio vecchio culo che il brigantino più grande è il Mutin, la nave di Adris Zoon!» Lorenzio gli strappò il cannocchiale di mano. Fatemi vedere, avete ragione, stanno essendo la bandiera. Per Dio, è la Jolie Rouge, sono i nostri. Entusiasta guardò gli uomini appostati in difesa. Ragazzi, la nostra gente, i fratelli della costa. Il mio team cannoneggiò di nuovo, a salve, come negli spari precedenti. Dai pirati del Neptune si levò un urrà festante. Ora tutti potevano vedere la bandiera nera con il teschio, le tibie incrociate e la clessidra. Anche l'alto brigantino e gli sloop stavano levando vessilli simili, con piccole variazioni a seconda del capitano. I filibustieri spararono in aria in segno di gioia e corsero verso la battigia ad attendere le scialuppe. Solo Rogerio rimase triste. Il suo piano per riavere la schiava era sfumato, almeno per il momento. Questi erano Swabuckle con il brano Jolly Roger. Manca a farla apposta. Vabbè, comunque un po' di brani si scelgono proprio apposta anche per la lettura. Anche quindi, i brani sono scelti. Ed ora quindi si passa alla controinformazione. Prima si è andato in Grecia, ora si va dall'altro lato del pianeta è in Messico, dove c'è una lettera del compagno Carlos López Martín, uno dei tre compagni arrestati in Messico ultimamente. Leggiamo direttamente la lettera. Sono stato molto contento per la notizia dei gesti di solidarietà fuori le mura ai tre anarchici arrestati, quindi anche lui. Continuiamo fermi e forti, nonostante le stupide accuse contro di noi e le parole intimidatorie. Qui ci dicono che passeremo molto tempo in prigione e i loro sforzi per cancellare ciò che siamo. Non ci riusciranno, visto che siamo fermi e determinati. Oggi ci hanno trascinati davanti al procuratore, sperando che ci saremmo dichiarati colpevoli o non colpevoli. A questo punto vorrei chiarire una cosa pubblicamente. Personalmente non accetto nessuna di queste posizioni. Innocente, colpevole, sarebbe come approvare le leggi stupide dello Stato, la cui autorità io non riconosco. Alla fine lo Stato e le sue leggi sono semplicemente generatori e modulatori di privilegi, di ingiustizie, lo sfruttamento e la dominazione. Qualcosa ha attirato la mia attenzione e mi ha lasciato schifato. Il fatto che ci associano con il Movimento 132, cancelletto post mi salto, che sarebbe un movimento contro l'aumento del prezzo del biglietto e altre cose simili. Voglio chiarire che non accetto questo in nessun caso. Noi non riconosceremo alcun movimento istituzionalizzato, organizzazione gerarchica. Non è un caso. Voglio sputare il mio odio contro questo sistema carcerario e non so se ci sono realmente delle persone che credono nella riabilitazione, questo dopo la detenzione, e che diventano addomesticati e vivono una vita tranquilla in armonia con gli individui e i fiori che li circondano. Personalmente penso che ci sia un solo modo per definire questo: ostaggio. Sì, la negazione di ogni libertà si chiama ostaggio. Attraverso il sistema carcerario cercano di spegnere la volontà di coloro che lottano per un mondo nuovo e chi resiste è etichettato violento, un pericolo per la società, un terrorista. Lo Stato è l'unico terrorista, poiché è la fonte generatrice della violenza, che ha il monopolio delle armi, della tortura e di violentare i nostri diritti naturali. È il sistema di dominio che ci violenta ogni giorno, dandoci salari di miseria, sfruttando il lavoratore, trattandolo come una macchina che produce soldi, piuttosto che un essere vivente. Ci violenta quando distrugge la natura per creare zone commerciali, ci violenta con i suoi programmi in TV, i quali cercano di modellare i nostri pensieri. Contro i metodi di dominio, Carlos López Martín. E poi c'è una nota di Interarma, che praticamente dal sito di Sabotage Media apprendono che i compagni di Sabotage Media hanno ricevuto una telefonata dal compagno Carlos, che li ha informati della decisione del PGR di imporre una proroga di 40 giorni, una detenzione preventiva arbitraria ufficializzata che può essere prorogata senza prove per tutte e tre. Siamo consapevoli che questa è una misura disperata del PGR, che sarebbe il procuratore federale, per detenere i compagni in modo che possano nel frattempo cercare altri elementi per le loro accuse. Ma è anche chiaro che vogliono continuare ad interrogarli, far firmare dichiarazioni di coinvolgimento, torturarli per cercare informazioni e per coinvolgere altri compagni. Inoltre è anche il modo per convincere le famiglie ad abbandonare la difesa legale dei compagni, perché l'interesse del governo è che essi abbiano un avvocato d'ufficio e unico, in modo che possano condannarli senza una difesa giuridica e politica. Il PGR non ha quegli elementi, ma li stanno cercando. E questo era l'ultimo, era un pezzo in aggiunta che dei compagni di Interarma, il sito da cui si è preso la lettera di Carlos López, che tra l'altro vengono a sapere da altri compagni di un altro sito, Sabotage Media, che comunque è un sito di controinformazione. Ora ci ascoltiamo un altro brano, loro sono Fear Factory, il brano è Controlled Demolition, e poi dopo si torna qui e si ritorna con la lettura di Tortuga di Valerio Evangelisti. Rogerio non avrebbe mai immaginato di poter assistere ad una riunione di alcuni dei principali capitani della filibusta. E questa volta non fu presente in veste di traduttore, bensì per una sua peculiarità molto meno scontata. «Pranzerai con noi perché sai le preghiere in latino», gli disse Lorenzillo, che presiedeva la tavolata allestita fra le palme. «Serve qualcuno che benedica le portate e lodi il Signore per il cibo che ci dispensa, e tu sei l'uomo giusto». Ravenò de Lussano fece una smorfia divertita. Rogerio guardò i pirati ad uno. François Lesage, che comandava il brigantino più piccolo un due alberi, aveva partecipato all'assedio di Cartagena, godeva fama di spietato. Simon Rochon, a capo di uno degli sloop catturato agli inglesi in barba all'alleanza della Francia, era noto per le torture atroci che infliggeva ai prigionieri sospettati di nascondere le ricchezze. Jean Rose, comandante di un altro sloop, aveva modi e viso da pura canaglia. Willems e Adriszon invece parevano autentici gentiluomini, persino più compiti di De Graaf. I cinque capitani, prima ancora che le portate arrivassero, avevano già vuotato due bottiglie di vino di Rioja provenienti dalla cambusa di un galeone spagnolo catturato 10 giorni prima. Jean Rose, autore della presa, rise al ricordo. «Ho svuotato le stive e la polveriera, ma non volevo tenermi la nave, troppo grossa e pesante, così ho lasciato gli spagnoli su pezzetti in libertà. Non ci credevano e quasi piangevano tanto che erano felici e non sospettavano la sorpresa che li attendeva». «E quale?» chiese Addison mentre si asciugava le labbra. «Avevo fatto sciogliere i cannoni». Scoppiò una risata generale. Un solo cannone libero dai vincoli era capace di sfondare le fiancate di una nave. L'oscillazione costante dei velieri lo faceva correre da una parte all'altra, schiantando travature e travolgendo tutto ciò che si incontrava. Fermarlo era peggio di una corrida e costava quasi sempre morti e feriti. Figurarsi se a essere libera in alto mare era un'intera batteria. Il legno aveva davanti a sé poche ore di navigazione prima di colare a picco. Le risa non erano ancora cessate quando giunsero i piatti portati da Bamba, da alcuni schiavi africani imbarcati sul mutin e da 5 indigeni, incluse 2 donne. Erano seminude ma bruttissime, con quel cranio che somigliava ad un pedone degli scacchi, e quindi nessuno proprio badò a loro. I vassoi contenevano frutta, pollame, bistecche e prosciutto di cinghiale ben speziato, riso bollito in foglie di palma, brodo di tartaruga, cocchi già aperti e gonfi di latte. Un indigeno dispose davanti a ogni commensale una forchetta a 2 punte e un coltello, un altro una coppetta piena d'acqua per lavarsi le dita. I capitani fecero per gettarsi sul cibo, ma Lorenzillo li bloccò con un gesto. «Gesuita, questo è il tuo momento, recita la preghiera». Rogerio giunse le mani e chinò il capo. «Benedicta te custodiat nos omnipotens et misericors Dominus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen», disse Lorenzillo. E tutti i convitati si segnarono, con l'eccezione di Ravenò de Lussan, che era ateo, e di Addison e Willems, che invece erano luterani. Inizialmente le chiacchiere furono svagate. Rogerio, mentre assaporava il suo brodo di tartaruga, notò che gli avventurieri vestivano alla moda degli aristocratici francesi o inglesi, colletti ricamati in argento, camicie e foulard di seta, polsini a sbuffo e corpetti con filettature d'oro. Avevano deposto di fianco a sé sulle panche i cappelli ornati di piume. Tuttavia mangiavano in maniera invereconda, bevevano come spugne i vini fatti per essere assaporati e rottavano sonoramente. Un'aristocrazia di seconda classe, molto simile alla borghesia mercantile. Nessun nobile europeo avrebbe accolto quelle canaglie nel suo salotto. La similitudine maggiore era però con gli spagnoli di seconda o terza generazione, arrivati nelle Indie occidentali al seguito dei conquistadores. Nobiltà minore, borghesucci avidi a raffoni piovuti nel nuovo continente per far quattrini nel minor tempo possibile, valendosi dell'istituto della encomienda, che consentiva di rendere schiavi gli indigeni senza che quella fosse chiamata schiavitù. A costoro erano accostabili, secondo Rogerio, i capi dei Fratelli della Costa, pari per volgarità e cinismo. Li differenziava solo, a parte l'inosservanza delle leggi, la fedeltà a costumi democratici assembleari. Una prassi che li avvicinava, in qualche modo, ai coloni inglesi del settentrione che popolavano città come New York e Boston. Sebbene i condottieri che Rogerio aveva di fronte fossero in prevalenza cattolici, parevano aver fatto proprio certi costumi degli ugonotti. Fu Lorenzio, mentre gettava nella sabbia un osso spolpato, il primo ad affrontare un argomento scottante. «Amici, ho avuto da certi inglesi catturati in mare notizie preoccupanti. Non so ancora bene come vadano le guerre in Europa, però sembra che il re Luigi sia deciso a scaricarci e avrebbe mandato alla tortuga un governatore a noi ostile, incaricato di tenerci a freno». Il rude Rochon alzò le spalle. «Ebbene, qual è il problema? Si va a Port Royal, si passa con gli inglesi». «Ma senti quest'idiota!» Lorenzio parve sul punto di lanciare il piatto in faccia al collega. «Proprio tu mi dici questo, Simon? Non ti ricordi nemmeno che navighi su uno sloop che batteva la bandiera del re dell'Inghilterra? E allora? L'Inghilterra è alleata con la Francia, non lo sai? Ma sì che lo sai! Non sei mica tanto scemo così come vuoi sembrare!» Simon Rochon bevve una sorsata di vino, ingurgitò il liquido e scaracchiò sulla sabbia. «Hai appena detto, Lorenzio, che il nuovo governatore della Tortuga ci vuole liquidare. E cosa vuoi che mi importi delle patenti dei rappresentanti di Re Luigi? Sono qui per fare bottino, non per sostenere una corona o l'altra. Tanto se ci prendono, ci impiccano lo stesso, patente o non patente, spagnoli o inglesi che siano». «Mai visto un simile imbecille», commentò Lorenzio. E parve meditare un attimo, poi si alzò di scatto, sguainò la sciabola e la calò con tutte le forze sulla testa di Rochon. Il cervello di questi cadde nella scodella che aveva davanti, zeppa di carne di porco condita con aglio e cipolle, più un pizzico di pepe e due foglioline di laudano. Lorenzio pulì fra le dita il filo dello sciabolotto. «Ci sono altri che la pensano così, che dobbiamo farci nemiche Francia e Inghilterra?» E i presenti tacquero. Lorenzio sorrise. «Ottimo! Il cavaliere de Grammont sarà fiero di voi, gesuita! Saresti capace di condurre uno sloop come capitano, intendo!» Rogerio annuì, più per il timore di rappresaglie che per convinzione. «Immagino di sì, mi capitano!» «Ebbene, l'imbarcazione del fetente Simon Rochon, detto Simon, è da adesso al tuo comando. Porta via la carcassa e regala il cervello finito nella scodella agli Arawakos. Ne vanno ghiotti! Altre obiezioni?» «Circa la nostra fedeltà alla Francia?» Non ve ne furono. Mentre trascinava via la salma per le ascelle, Rogerio di Adelson che diceva: «Laurent, ho l'albero maestro che sta per crollare, è incrinato alla base, anche il trinchetto regge male. Alla tortuga non troverei ricambi». «E dove volete andare?» chiese Lorenzio addentando una bistecca. «Curaçao sarebbe l'isola giusta, vendono vele, schiavi e persino timoni. So che il luogo non è vicino, però vale la pena, vele e alberi a parte, c'è tanta carne, morta o viva». Lorenzio vuotò la coppa che aveva alle labbra, rise forte. «Ebbene, appena abbiamo finito di mangiare, rotta su Curaçao! Le puttane della tortuga dovranno pazientare ancora un poco». Ci vollero ore perché il pasto finisse. Era quasi sera quando Rogerio si alzò da tavola, appesantito, e raggiunse la spiaggia. Guardò il mare, in quel momento molto calmo, e i veliri alla fonda. Cercò con gli occhi stanchi lo sloop che avrebbe dovuto comandare. Di fianco ai brigantini appariva minuscolo e fragile, ogni onda lo scuoteva in tutte le sue strutture. Fu raggiunto da Le Bon, che gli porse una pipa accesa. «Ho saputo la notizia, eccoti capitano, ma non ti illudere, la tortuga riprenderà il grado di nostromo, sempre che De Grammont e l'equipaggio del Sole Ardi siano d'accordo. Qui si procede per votazioni». «Sento parlare di continuo di questo cavaliere De Grammont», disse Rogerio dopo una tirata, «ma conta davvero tanto, più di Lorenzio». «Tra noi, ultimi filibustieri, De Grammont è un mito, un essere sovrumano. Non c'è avventuriero che non gli porti rispetto». «Ma perché dici ultimi?» «Avrai sentito le novità. Senza la protezione di Sua Maestà Luigi per la tortuga non c'è futuro. Abbiamo causato troppi guai alla Francia, specie con la presa di Veracruz. È stato uno dei pretesti per far ricominciare la guerra con la Spagna». Le Bon sospirò. «Vieni, ti presento la tua ciurma, ragazzi simpatici, direi. e domani li vedrà in azione. Ruggero trotterellò dietro all'amico diretto ai primi fuochi accesi tra le capanne. La sera stava calando e i canti degli uccelli si spegnevano. Domani. Lorenzio aveva mandato in esplorazione una lancia che ha avvistato un galeone fiammingo a nord di qui, rallentato dall'assenza di vento, e un boccone troppo grosso per lasciarlo scappare. Il bottino finora è stato scarso e gli uomini sono affamati di preda. Ruggero trasalì. Ma io non so se saprò dirigere un'azione di guerra, è il mio primo comando. Lebonne gli batté sulla spalla. Ma rassicurati, hai il vantaggio di avere uno sloop. Quelli sono velieri che combattono da soli, senza contare un buon equipaggio a bordo. Avevano raggiunto il campo, i pirati delle diverse navi avevano fraternizzato e attorno ai fuochi consumavano il rancio, bevevano vino, birra o rum e si raccontavano storie. Alcuni carezzavano donne affittate dagli indigeni, tutt'altro che belle, tuttavia nude come erano seducenti. Gli arawakos maschi sedevano negli sparti e consumavano cibo dalle ciotole. Rogerio si chiese se tra gli alimenti che masticavano non vi fosse anche il cervello di Simon Rochon. «Ma perché Lorenzio ha ucciso Rochon?» chiese a Lebon. «Ammazza così facilmente!» L'altro alzò le spalle. «Beh, dopo Veracruz ha fatto fuori Fanorn, che era un grande capitano. Di solito però De Graff non è così impulsivo. Lo è stato un paio di mesi fa con il secondo ufficiale del Neptune, ma non è la norma!» A Rogerio tornò in mente che sulla nave di Lorenzio Calloa non aveva un secondo. «E cos'è successo all'altro ufficiale?» domandò. E ha fatto alla fine del vero imbecille. Si era innamorato di... Lebon non ebbe il tempo di completare la frase. In mezzo all'accampamento in cui stavano rientrando, sotto la luna appena spuntata, fece irruzione Adris Zon. Si stringeva nel mantello e la sciabola gli pendeva al fianco. Pareva in tutto e per tutto un aristocratico, se non fosse stato per la voce gutturale e per l'eloquio osceno in più lungo. «Dov'è quel Jean Foutre il gesuita?» gridò. «Cogno! Il galeone fiammingo gli sta scappando!» Rogerio corse avanti. «Sono qua! Che succede?» «Succede, bello mio, che sta tornando il vento, il galeone prende il largo, radunate la vostra ciurma e raggiungetelo su uno sloop di notte, la presa è facile!» Rogerio non sapeva nemmeno come si chiamasse la sua imbarcazione, curvò le mani attorno alla bocca e urlò: «Il mio equipaggio, qui!» Un gruppo di pirati lasciò i fuochi e camminò verso di lui con passo strascicato. La loro indolenza faceva capire che l'alcol sulle membra aveva avuto il suo effetto, o forse gli uomini avevano dubbi sul nuovo comandante. Prima di guidare quella marmaglia pigra alla battigia e alle lance che gli avrebbero condotti allo sloop, Rogerio fu colto da uno scrupolo. «Capitano Addison, siamo sicuri di essere ancora in guerra con i fiamminghi?» L'olandese sogghignò. «Se c'è la pace, potremmo dire di non esserne stati al corrente. Funziona sempre e il re di Francia ci perdona. Che ne sappiamo noi degli intrighi europei? Ma adesso, andate alla vostra nave, piccolo gesuita, e uccidete più che potete. Voglio svegliarmi con il vento che mi porta l'odore del sangue.» Loro erano Santa Itziu con il brano Fire the Cannon. Ora si ripassa alla controinformazione con una notizia che arriva dal Cile, dove ci sono state delle barricate in solidarietà con i compagni detenuti. Il 30 gennaio, dice il testo, abbiamo fatto un blocco tra Avenida Las Industrias e Avenida Santa Rosa, nella città di San Joaquín. Il motivo della nostra azione e la propaganda sono tutti i lottatori sociali che sono rinchiusi nelle prigioni del capitale. La nostra azione è stata veloce ed efficace. Utilizzando 10 pneumatici e 5 litri di benzina, abbiamo proceduto ad accendere la barricata, lanciare la propaganda e abbandonare il posto. Come ha detto la signora Luisa Toledo, la cosa peggiore che possiamo fare è rimanere indifferenti. Quindi la nostra propaganda per questo è un saluto e segnale di rispetto per il coraggio che ha avuto Tamara, sua nipote, ad attaccare un difensore del capitale, fatto che, pensiamo, abbia avuto degli errori nella progettazione, però non è un criticare le azioni di una compagna che ha restituito i proiettili che ha ricevuto l'anarchico espropriatore Sebastian Overslucci. In questa guerra in cui viviamo insorti, gran parte della nostra vita è scossa da colpi di diversa natura, sorveglianza, arresti, torture, compagni rinchiusi, compagni assassinati, ma è un percorso che abbiamo scelto, di cui siamo orgogliosi e preferiamo mille volte continuare il nostro cammino di sovversione che essere un conformista, disadattato o traditore. Per Tamara, Farias Toledo, Hans Niemeyer, Marcello Villarroel, Freddy Fontavilla, Juan Alisten Vega, Carlos Gutierrez, Victor Montoya, Francisco Solar, Monica Caballero, Fernando Malliceo, Christian Levinao, Luis Marileo, Leonardo Guillon, Gabriel Valenzuela, Maci Celestino Cordova, Gabriel Silva da Pombo e tutti i detenuti politici mapuci e anarchici nel mondo. Con gli 81 prigionieri bruciati nel carcere di San Miguel, nella memoria per sempre, guerra sociale, agitadores insurrectos. E questo era il testo che arrivava dal Cile per quanto riguarda questa azione rapida che hanno fatto i compagni cileni, facendo una barricata veloce, dando fuoco a questi pneumatici e andando via, lanciando la propaganda e andando via. Azioni che sono incisive, brevi e non rischia nessuno. Ed efficaci soprattutto. Allora, ora ci ascoltiamo un brano degli Antagonist, il brano si chiama Thank You Pain, e dopo si ritorna con la lettura di Tortuga di Valerio Evangelisti. Go! sloop che era stato di Simon Rochon, il Conqueror, era più che altro una corvetta da guerra con un lunghissimo bompresso e una sola vela quadra di maestra, una randa trapezoidale e sopra una controranda triangolare più innumerevoli fiocchi. Era armato di 10 colubrine sul ponte principale più 2 grossi pezzi da caccia sistemati a prua. Non aveva castelli e sembrava fatto per una ciurma di una trentina di uomini. In realtà i pirati che salirono a bordo furono quasi il doppio. I vascelli della filibusta erano sempre sovraffollati, anche perché raramente si spingevano a largo. Rogerio era molto emozionato. Non avrebbe mai immaginato di trovarsi a condurre una nave, sia pure piccola, in tempi così brevi. Ciò per lui era motivo di orgoglio, ma anche di timore. Un'angustia che si aggiungeva alla preoccupazione costante per la missione segreta che doveva condurre a termine, che lo aveva portato in quei mari. Per fortuna gli uomini raggiunsero le loro posizioni obbedendo ad una consuetudine di vecchia data. «Non c'è ufficiale!» chiese. «Non c'è uno stromo!» Il giovane che stava discutendo con il timoniere si fece avanti. «Eccomi, capitano, io sono un po' l'una e un po' l'altra cosa. Col capitano Rochon, pace all'anima sua, si usava così». Il personaggio che Rogerio scorgeva appena alla luce dell'unico fanale di poppa puzzava di alcol, ma, a differenza di molti suoi compagni, era abbastanza fermo sulle gambe. Portava una camicia sudicia, aveva baffi arricciati e un fazzoletto scolorito gli copriva i capelli lunghi e unti, grossi orecchini circolari gli pendevano dalle orecchie. Rogerio trattenne un moto di disgusto. «E come vi chiamate?» «Michel Truon, capitano. Imparentato con i Truon di Saint-Malo, in Francia, dove sono nato». Il cognome Truon era a Rogerio completamente ignoto e non capì l'orgoglio del giovane e gli pose con una certa esitazione una domanda che gli bruciava. «Saprai che Rochon è morto. Non eravate affezionati, tu e la ciurma, al vostro capitano?» Temeva fortemente di non essere né accettato né obbedito. Truon scoppiò a ridere senza ritegno. «Quel bastardo! Se non ci avesse pensato Lorenzio ci avremmo pensato noi, e dire che l'avevamo letto! Mentre navigavo con lui avevo un solo pensiero fisso: bucargli la pancia. Tutti sul Conqueror la pensavano allo stesso modo. Ma che cosa vi ha fatto? Pigliacco in battaglia. Ecco ciò che era Simon Rochon. Ci mandava avanti, però non l'ho mai visto impugnare la sciabola. Ha fatto fustigare un uomo quasi a morte perché si era addormentato durante la guardia, e lui la guardia non la faceva mai. Era un po' come il secondo ufficiale del Neptune che Lorenzio ha fatto rinsecchire nella gabbia di ferro». Rogerio rabbrividì e tuttavia non osò chiedere spiegazioni. «Si salpa», disse secco. «Ve le spiegate, fanale spento, sapete cosa fare». L'ultima osservazione era stata pronunziata senza troppa convinzione. «È certo che lo so, capitano». Truan esplose in un rutto fragoroso. «Scusate, il vino di agave è quasi peggio del vino ordinario. Ora cerco di far muovere questi pelandroni». Il bretone si inoltrò nella tolda imprecando all'indirizzo dei marinai. Vi fu chi lo insultò, ma la maggioranza uscì dall'apatia. Si sciolsero le vele, si armò il molinello, si mollarono le gomene, si bracciarono i pennoni. Il Conqueror, spinto da un vento favorevole, si inoltrò nella notte a fanale spento. Rogerio non sapeva dove andare, non c'era un quadrato, così come non c'erano ufficiali, e forse il comandante dormiva sotto coperta assieme all'equipaggio. Avvicinò il timoniere. «Dov'è il sestante?» gli chiese. L'altro lo guardò con un'espressione ebete. «Che cosa?» Rogerio non insistette, si navigava a braccio. Del resto la velocità della corvetta era impressionante. La si percepiva da un rollare molto più avvertibile di quello di un brigantino o di una fregata. L'imbarcazione si inclinava spesso da un lato o dall'altro, e a volte, se l'onda era spessa, pareva destinata a essere inghiottita dalle acque. La ciurma, alla sola luce della luna, sembrava un groviglio di demoni. Gli uomini si sospingevano sul ponte, si inerpicavano sui pennoni e sul saltiame. Rogerio poté vederne in viso pochissimi, a parte gli schiavi negri, spinti affrustati ai loro compiti. Erano molto giovani, razze miste, espressioni subdole o idiote, carnagioni ibride. I fumi dell'alcol stavano svanendo, eppure la lucidità era merce rara in quel branco berciante. In paragone l'equipaggio del Neptune appariva di prima scelta. Malgrado ciò, la navigazione era agevole, grazie anche alla bravura di Truong. Il bretone riusciva a rendere operativa le peggiori canaglie a furia di bestemmie, prese anche a pugni un colosso irlandese che si afflosciò sotto i colpi. Finalmente i fanali di poppa del galeone fiammingo, già annunciato da chi stava appollaiato sulla coffa e pativa un freddo polare, furono visibili a tutti. Erano le 3 del mattino del 20 gennaio 1685. «Silenzio completo!» ordinò Ruggero a Truong. «Pronte le armi, i grappini d'abbordaggio e le granate, là i più dormono. Ci si affianca e si sale. E le colubrine, mio capitano, i cannonieri siano allerta. Ma non abbiamo bisogno di loro, meglio non sfondare una nave che ci serve. Dico bene!» Truong portò il palmo della destra con due dita strette alla fronte come si usava nelle marine militari di ogni continente. «Dite benissimo!» E ruttò di nuovo. «Che il diavolo mi porti se non faremo una buona presa!» Benché sembrasse un miracolo, vista la qualità della ciurma, il silenzio calò sul Conqueror, che navigò invisibile verso i fanali vicini. A bordo del galeone la guardia doveva essere ai minimi termini. Nessuno diede l'allarme, nemmeno quando i due scafi cozzarono. Ruggero, che fino a quel momento quasi non era riuscito a respirare per la paura, ritrovò il coraggio, sguenò la sciabola. «All'arrembaggio, fratelli della costa!» urlò. «Fuori i grappini!» gli rispose un ruggito collettivo. Il galeone fu agganciato e la massa ubriaca prese a scalarlo. I più agili si aggrapparono ai cannoni della preda e li usarono per scavalcare l'impavesata. Gli altri salirono veloci cime e griselle o si gettarono sulla tolla dalle coffe. Alcuni caddero in mare e cominciarono a scoppiare le granate. Ruggero fu fra gli ultimi a mettere i piedi sul galeone, lo sciabolotto stretto tra i denti. Già echeggiavano i colpi di pistola, i fiamminghi destati di soprassalto uscivano a frotte dal cassero e dal quadrato di poppa, muniti di moschette inservibili per la lentezza del caricamento, di pistole, di asce, di spade e persino di bastoni. Erano seminudi o vestiti sommariamente, cadevano l'un l'altro prima ancora di aver capito con chi avessero a che fare. Ruggero tagliò di persona la gola al timoniere con un colpo di sciabola, poi forò il ventre di un artigliere che assurdamente cercava di raggiungere il suo pezzo. Vide visi attoniti e occhi sbarrati. Intanto, attorno a lui, i pirati si esibivano nello spettacolo consueto, forse sovreccitati dall'ebbrezza. Grognivano, saltavano, imitavano le pose dei gorilla. Quando agguantavano un nemico non lo uccidevano subito, gli tagliavano un arto, dopodiché lo passavano ai compagni che procedevano a ulteriori mutilazioni fino a dargli la morte. Presto, come al solito, la tolda del galeone fu un lago di sangue che cadeva in mare a getti attraverso le cubie. Il lume dei fanali permetteva di scorgere in acqua dietro il timone le pinne dorsali di una torma di squali. Nelle loro fauci furono gettati molti dei fiamminghi risparmiati dalle lame. Ruggero urlava come la ciurma e colpiva alla cieca. Si rese conto di aver passato il segno e finì col trattenersi. Marciò verso il castello di poppa dove gli uomini in parrucca e marsina stretti fra loro assistevano al massacro. Gli era rimasto il cappello in testa, lo tolse, piegò il busto e gli domandò: «Chi è il capitano?» Il gentiluomo che gli rispose in buon francese tremava dalla testa ai piedi. «Sono io, signore, vi prego di risparmiare i miei marinai.» «Ma da dove venite?» «Dalla Gaira.» «Ma non abbiamo carico, stiamo andando a Curaçao a imbarcare merci, questa nave è vuota.» Mentre il capitano, del quale Ruggero non aveva neppure chiesto il nome, stava parlando, in sottofondo si sentiva il solito coro di lamenti e di grida di feriti. I pirati non uccidevano più, ma non soccorrevano i moribondi e non avevano caduti dalla loro parte, e ciò li soddisfaceva. I più ubriachi si divertivano a calpestare i corpi sofferenti sulla plancia e a farne schizzare il sangue dalle ferite. Ruggero non sapeva bene che fare. Truong gli suggerì il comando più ovvio. «La nave va perquisita. Non avrà merci, però hai di sicuro viveri, bottiglie di vino e qualche pezzo d'oro di proprietà degli ufficiali. Ah, giusto, eseguite. Inoltre, a noi servono anche pennoni, velature, sartiame, scialuppe e arredi. La polena è elegante. Figurerebbe bene sui nostri brigantini, per non parlare dei cannoni. I pezzi grossi non li possiamo trasbordare, quelli leggeri, sì. Ruggero obiettò. Trasciniamo alla isla dello Spinos l'intero galeone, allora. Entrerà a far parte della nostra flotta. No, no, no, no! Truan scosse il capo. Troppo grande e lento. Avete visto voi stesso quanto è stato facile catturarlo. E mise un singulto. La differenza è quella tra spogliare una donna e maritarla. Questa nave va spogliata, non sposata. Attorno, alcuni dei pirati risero. Rogerio, irritato dalla propria mancanza di autorità, disse secco: «Signor Truan, fate perquisire la nave, che ogni merce utile e trasportabile, a partire dagli schiavi, sia trasferita sul Conqueror. Io non posso interessarmi ai dettagli». Il bretone sorrise. «Ecco come parla un vero capitano! Bravo!» Subito dopo, sia pure barcollando, Truan si precipitò sui suoi uomini, che punzecchiavano i feriti con la punta delle sciabole e si divertivano ai loro lamenti. «Razza di pelandroni!» gridò. «Basta sollazzarvi! Frugate il galeone da cima a fondo e sbattete ogni cosa utile a partire dagli schiavi sul Conqueror!» I filibustieri, fin lì indolenti, riacquistarono vigore e sciamarono da ogni lato. Ultimo a muoversi fu il gruppetto che teneva il mozzo fiammingo a gambe larghe col ventre poggiato su un barile, calzoni abbassati. Il francese strillava come un maialino che stava per essere sgozzato, mentre i pirati lo penetravano a turno. Poi questi corsero ad accaparrarsi una quota di bottino e l'adolescente rimase nella posizione in cui l'avevano messo semisvenuto. Rogerio era rimasto solo, la sciabola sguainata, di fronte al capitano nemico e ai suoi ufficiali, incerto sul da farsi. Vide, con la coda dell'occhio, membri della sua ciurma scaturire dai boccaporti carichi di suppellettili spesso insignificanti. Disse al fiammingo con l'ennesimo inchino: «Signore, vi restituisco il vostro veliero». E l'altro rispose, aspro: «E che me ne faccio di un galeone da cui si stanno asportando persino le vele? E parlo di una ciurma di ladri in preda all'alcol, e molto se stanno diritti. Vergognatevi, amico mio!» Rogerio capì che il fiammingo aveva ragione, e proprio per questo lo colpì di scatto al cuore, di punta. Apprezzò la scioltezza della lama e ammirò l'eleganza con cui il corpo si afflosciava. Si rivolse agli ufficiali fiamminghi, rigidi e inorriditi. «Era cattolico! Nessuno di voi è cattolico!» Non vi fu risposta. Rogerio alzò le spalle. «Lasciamo perdere la vostra fede. Pregate secondo il vostro credo e riprendetevi il galeone. Sarà molto più maneggiabile dopo che l'avremo svuotato». E nettò la lama insanguinata fra pollice e indice. Lying in the arms of love. E loro erano Scapaflu con il brano Drugstore. Ora si ritorna alla controinformazione. Ancora una volta si torna in Grecia con uno scritto dei compagni accusati per la rapina di Velventos. Allora, leggiamo lo scritto. È certamente bello e allo stesso tempo necessario trovare sempre le parole per interpretare e analizzare il significato più profondo della solidarietà. Lo sviluppo della teoria, tanto a livello di essenza che di diffusione, è la forza motrice nel percorso che porta alla crescita di una comunità di lotta. La reciprocità di relazione si conferma attraverso una comunicazione continua e una capacità di esprimere a parole questo miscuglio di esperienze. Di esperienza personale e percezione di lotta in generale, come anche il tema della solidarietà in particolare. Ciò che abbiamo vissuto il 29 novembre in aula è la dimensione materiale delle nostre progettualità e dei nostri sogni. Ogni tentativo di parlare e di catturare tutti questi sentimenti, emozione e la loro forza per iscritto è condannato alla mediocrità. Non potremo mai, almeno noi, descrivere a parole, parole che, fortunatamente o no, portano all'oscurità di un mondo privo di libertà, la sensazione dell'avverarsi dei nostri desideri più forti. Dopo i vari mesi di isolamento fisico, la presenza dei compagni e l'intensità con la quale ci siamo uniti con i loro abbracci e sguardi ci ha dato la sensazione, impressione, di due fiumi in piena che si uniscono subito dopo aver distrutto una diga. Questi compagni, la rottura dell'isolamento, che sia immaginario o reale. L'abbiamo vinta qui, questa scommessa. Sì, la solidarietà è una delle nostre armi e nessuno sbirro potrà mai scoprire il posto oscuro dove nascondiamo questa arma. Abbiamo scritto questo testo per il primo giorno del nostro processo. Senza dubbio, ogni slogan, striscione, manifesto fatto, ogni incendio ed ogni iniziativa solidale ci hanno riempiti di forza allo stesso modo. Insieme fino alla distruzione di questo mondo putrido, insieme fino alla libertà, gli anarchici Nikos Romanos, Fivos Arsiris, Argyros Dalios, Andreas Dimitris Bourzogos, Dimitris Politis e Yannis Mihailidis. E questo era il testo che veniva dai compagni della doppia rapina di Velventos e Kozani per quanto riguarda la Grecia. Ora ci ascoltiamo un brano di X-Ray Specs Plastic Bag e poi dopo si torna qui e si fa altri due piccoli capitoli di Tortuga di Valerio Evangelisti. My mind is like a plastic bag. Bye. A Rogerio non dispiacque affatto perdere la carica di capitano e riprendere sul Neptune, appena fu riparato, quella di Nostromo in prestito. L'equipaggio del Conquidor, composto di mezzi idioti, di scansafatiche e di buffoni, lo aveva disgustato. Preferiva la mano ferma con cui Lorenzillo, coadiuvato da Calloa, sapeva tenere a freno ogni sorta di canaglie. Inoltre, nel ventre del Neptune era racchiusa l'unica schiava che gli premesse. Non più sola, purtroppo, bensì in compagnia. Nel galvone di prua resta restaurato di un'altra trentina di negri catturati sul galeone Fiammingo. La considerazione di cui Rogerio godeva dopo l'assalto riuscito al veliero nemico, ora alla deriva da qualche parte privo di vele e di segmenti di alberatura, era aumentata sensibilmente. Le Bon, parco di elogi, attese che avessero ripreso il mare per manifestarla. Era una giornata trasparente e caldissima, in cui si riuscivano a vedere a distanza le coste del Venezuela. La flotta dei pirati, che per l'occasione aveva issato bandiere inglesi, procedeva tranquilla, il Neptune in testa e il Conquidor in coda. Sul ponte principale dell'ammiraglia i marinai erano occupati nelle mansioni quotidiane, dalle pulizie all'alzo dei pennoni. Accompagnavano le loro fatiche col canto consueto della bamba, con l'aiuto dell'orchestrina appollaiata sul castello di prora. Ai tilin tilin tilin tilin, a tilin tilin, che repiquen campanas, repiquen campanas de Medellín, de Medellín, de Medellín. Medellín è un villaggio presso Veracruz, spiegò Le Bon. Durante l'assalto di 3 anni fa da Medellín cercarono di avvertire la guarnigione del forte di San Juan de Ulua che noi stavamo arrivando per via di terra. Lo scampanio fu però interpretato come un segno di festa e nessuno vi fece caso. E li prendeste di sorpresa? Eh sì, proprio come tu hai fatto con i fiamminghi. Eccellente azione, fra l'altro. Lorenzillo non te lo dirà mai, gesuita, ma ti considera molto. Rogerio si strinse nelle spalle. Beh, io ho seguito l'istinto. L'istinto è la sola legge che abbia valore tra noi fratelli della costa. Guarda con gli arawakos presso il boccaporto di prua. Lo sai perché si sono imbarcati con noi? Beh, per guadagnare qualcosa, immagino. Niente affatto. Sanno che seguendoci otterranno cibo, non quello ordinario, ma carne umana. Ne vanno ghiotti perché credono che cibandosi della salma di un morto valoroso ne otterranno le virtù. Le Bon rise del disgusto del compagno. È l'istinto, ti dico, noi abbiamo il nostro e quelli lì hanno il loro. La navigazione sul Neptune rimesso in sesto proseguì tranquilla e addirittura placida. Il brigantino puzzava di catrame e pululava di scarafaggi, ma nessuno vi faceva caso. Una brezza profumata gonfiava le vele e corroborava i polmoni, quantomeno in coperta. Sotto coperta, quando la campana imponeva il riposo, Rogerio evitava 2 persone, Pepe Canseco, ovviamente, e lo sceno Henri Duval. Questi aveva smesso per il momento di perseguitare i mozzi superstiti. D'altra parte, la vita faticosissima sulla tolda strappava ogni energia e costringeva a sonni profondi, fino ai rintocchi che chiamavano in coperta. Rogerio occupava una delle prime amache nel lungo corridoio che precedeva quello dei cannoni. Alla sua sinistra aveva la tavola oscillante, senza piedi e fissata al soffitto con 4 funi, su cui i marinai consumavano pasti veloci quando le incombenze non li costringevano a mangiare sul ponte superiore. Lì, seduto su un barile di rum vuoto, Rogerio fece migliore conoscenza con John Barton, il maestro d'ascia. L'inglese lo attraeva perché era stato il primo a sapere della schiava cui lui pensava di continuo. Durante un comune turno di riposo toccò con la propria coppa di ferro, grondante di vita, quella di Barton. «Alla nostra salute!» disse Rogerio. «Alla nostra, gesuita!» Entrambi bebbero una sorsata capace di strozzarli, poi una seconda, altrettanto abbondante. Il portoghese fu il primo a ruttare. «Ottima birra!» commentò. «Te lo dice uno che di norma preferisce il vino, specie se spagnolo!» E Barton ruttò a sua volta. Buona sì, come tutta la birra fiamminga, e la dobbiamo a te, gesuita, sei stato tu a prendere il galeone. Parlavano tra loro francese, una variante molto colloquiale, parecchio diversa dalla lingua madre. Rogerio approfittò di quell'istante di intimità per rivolgere al maestro Dash una domanda a cui nessuno fino a quel momento aveva risposto. Il mio problema sul Conqueror, John, era di non avere ufficiali, nemmeno sul Neptune c'è un secondo, eppure mi hanno detto che ce n'è stato uno, sai che fine abbia fatto? Oh, sì! Barton aggrottò le sopracciglia. Fino a poco prima che prendessimo il re dei Reyes e che tutti imbarcassi, pendeva dal buon prezzo di questa nave. Impiccato! Oh no, Lorenzillo si è arrabbiato, non è così generoso. Hai presente quelle sagome di metallo in cui gli spagnoli racchiudono gli indigeni perché muoiono di fame e con la loro carcassa servono da monito per le tribù ribelli? Sì. Rogerio trasaliva ancora pensando all'orrore di quel genere di strumento di supplizio. Si trattava di un'intelaiatura di ferro che costringeva un corpo umano attraverso vari anelli, 3 per il busto e 2 per le gambe. Il capo era serrato in una specie di gabbietta con un uncino sopra. Il condannato veniva appeso ad una catena agli spalti di un fortilizio o alla prua di un veliero e lì lasciato morire di inedia fino a ridursi a scheletro. Lui aveva visto usare l'arnese dagli inglesi in Giamaica e nelle Bahamas. Sapeva però che erano gli spagnoli a farvi più ricorso di frequente contro gli schiavi indocili e gli indigeni da disciplinare. Ho udito Jean Pellissier, il secondo ufficiale, urlare per quasi 3 giorni di fame e di sete, senza contare le ferite che il metallo gli procurava, spiegò Barton. Era tremendo vederlo penzolare, imbrattato di piscio e di escrementi. Alla fine invocava perfino Dio, la mamma e non importa chi, ma Lorenzillo è inflessibile di fronte ai casi di viltà. E qual era la colpa di Pellissier? Beh, durante una tempesta al largo dell'Havana, quando si trattava di alleggerire il carico e di gettare in mare gli schiavi chiusi nella stiva, Pellissier aveva cercato di risparmiarne un paio, per la precisione una donna di cui forse si era invaghito, e il suo bambino. Rogero si era atteso qualche racconto di guerra e un episodio grave di codardia. Udendo la storia, mormorò dopo una deglutizione faticosa: e questa sarebbe viltà. Eh sì! I tratti grossolani di Barton si irrigidirono, come se l'uomo richiamasse alla mente una legge indiscutibile. Per noi, e non solo per Lorenzillo, è un vigliacco chiunque metta a rischio una nave per salvare le sue cose. Per cui sei avvertito, gesuita. Barton addolcì il tono, che tornò confidenziale. Passi che la schiava di Pepe ti piaccia, nessuno te lo rimproverà, a parte Pepe stesso. Evita però di proteggerla ad ogni costo a scapito degli altri. Qui vengono per primi i fratelli. Le donne e gli altri beni personali, armi a parte, sono all'ultimo posto. Beh, non credo che si presenterà l'occasione, balbettò Rogerio. Non lo credo nemmeno io, replicò il maestro Dasha e frugò in tasca alla ricerca della pipa e del tabacco. Sei nelle grazie di Lorenzillo, cerca di compiacerlo. Con chi gli è simpatico è molto generoso, con chi lo avversa è terribile. La conversazione fu interrotta dal suono della campana che chiamava al pasto delle 10. Chi era libero da impegni urgenti accorse verso le pentole che il colossale Bamba aveva depositato di fronte al quadrato di poppa. Auguste Lebrun con un mestolo riempiva le gamelle che gli venivano porte. C'era carne salata, come sempre, ma anche qualche verdura tipo cardio, cavolfiore. Oltre ad una coppa di vino, ogni marinaio aveva diritto a un bicchiere di latte. E il Neptune, durante la sosta nella isla dello Spinos, aveva imbarcato alcune capre che si sentivano bellare sotto coperta. Rogerio, in fila con gli altri, scorse la Vino de Lussan sporgersi alla porticina del quadrato. Evento raro, visto che il chirurgo, quando non c'era bisogno di lui, preferiva starsene rintanato nella cabina, immerso nella lettura dei suoi libri. E De Lussano gli faceva cenno di avvicinarsi. Un po' seccato, Rogerio lasciò la coda in una buona posizione per avere la gamella riempita di cibo abbondante e ancora caldo. «Che cosa volete, dottore?» chiese brusco. «Siete stato sul Conqueror, mi risulta». «Sì, e con questo?» «E non avete notato qualcosa di strano nell'equipaggio?» Rogerio si chiese cosa l'altro volesse dire per scotere ricordi recenti. «Beh, erano sovraeccitati», raccontò, «sgradevoli e crudeli, agivano come animali, ora indolenti, ora ferocissimi. Penso che fosse dovuto all'alcol che avevano ingurgitato». De Lussan scosse il capo. «Non è semplicemente questo. Sul Conquilor avete assistito alla fase mediana dell'evoluzione di un pirata. Questi, a quel punto della sua carriera, ha colto natura ferina che si cela sotto le parvenze umane e ha cominciato ad abbandonarvisi. Manca un passo alla fase terminale. E quale sarebbe? Domandò Rogerio, che stentava a capire dove il chirurgo volesse andare a parare. Francamente non comprendo. Ah, capirete in seguito, messo piede alla tortuga. L'ultima fase è quella in cui la ferocia naturale è tradotta in filosofia. L'egoismo più sfrenato è spacciato come libertà, la spietatezza più estrema diventa norma di condotta morale. La belva che è in tutti noi non solo ferisce e uccide, ma cerca giustificazioni etiche alle sue malefatte. Le peggiori torture diventano inevitabili. Ogni uccisione è legittimata sulla base del dobbiamo pur sopravvivere. A la guerre come a la guerre, non si ammette che l'uomo in sé è una fiera. E beh, sarebbe l'ultima fase, chiede Ruggero, che aveva capito ben poco del discorso. L'ultima tra i fratelli della costa. Passano da una degradazione all'altra, credono di essere dei paria e invece sono gli embrioni della società a venire. Rogerio fu distolto dalla conversazione e poté tornare nella fila per il rancio quando il marinaio appollaiato sulla coffa del trinchetto annunciò le isole Aruba e Bonaire. Curaçao era vicinissima e infatti apparve nel primo pomeriggio. Era vasta e spoglia, con una vegetazione bassa. Sofia, l'egoismo più sfrenato è spacciato come libertà. La spietatezza più estrema diventa norma di condotta morale. La belva, che è in tutti noi, non solo ferisce e uccide, ma cerca giustificazioni etiche alle sue malefatte. Le peggiori torture diventano inevitabili. E ogni uccisione è legittimata sulla base del dobbiamo pur sopravvivere. Alla guerra come alla guerra. Non si ammette che l'uomo è in sé una fiera. E sarebbe l'ultima fase, chiese Rogerio, che aveva capito ben poco del discorso. L'ultima, tra i fratelli della costa, passano da una degradazione all'altra, credono di essere dei paria e invece sono gli embrioni della società a venire. Rogerio fu distolto dalla conversazione e poté tornare nella fila per il lancio, quando il marinaio, appollaiato sulla coffa del trinchetto, annunciò le isole Aruba e Bonaire. Curaçao era vicinissima e infatti apparve nel primo pomeriggio. Era vasta e spoglia, con una vegetazione bassa che pareva costituita essenzialmente da cactus e cespugli disseminati tra limbi desertici. La città principale era circondata da una muraglia alta ma sottile che terminava in un forte possente costruito sulle rive di un lago. Dalla rocca furono sparati alcuni colpi di cannone. Lorenzio, che era apparso in coperta, disse a Calois: «Ci salutano, rispondete con 3 colpi a salve e issate la bandiera francese!» Il primo ufficiale stava per obbedire quando una nuova cannonata proveniente dal fortilizio troncò di netto l'alberetto di Belvedere del Mutin e cadde in acqua davanti al tagliamar del Neptune. «Porco demonio!» urlò Lorenzio. «Ci bombardano gli artiglieri ai pezzi, pronti a rispondere al fuoco!» Dai bastioni di Curaçao esplosero altri colpi. E con questo, dopo la caduta di connessione che oramai è diventata un'abitudine durante le dirette d'azione, finiamo qui la diretta d'azione di oggi, ricordando il prossimo appuntamento che è per venerdì 7 con la diretta d'azione con controinformazione e musica. Invece per il continuo di Tortuga, lo sapete, è il lunedì per chi ascolta Radiazione di solito. Date commenti. Eh sì, allora, quindi chi vuole consigliare altre letture da leggere durante le dirette d'azione, chi vuole mandare mail, comunicati, scritti, giornali online o cose che si possono mettere in download gratuitamente, lo può fare attraverso la mail di radiazione, radiazione@vistici.org, o altrimenti per leggere la controinformazione aggiornata quotidianamente, ricordo il sito di radiazione che è radiazione.org. La radio, chi l'ascolta sa come si fa, altrimenti per chi sta ascoltando in questo momento per la prima volta, non l'abbia mai fatto, basta cliccare sul banner che trovate sull'articolo che annuncia la diretta del giorno, oppure sulla sidebar trovate il lettore, cliccate su play e ascoltate la diretta d'azione dal lunedì e il venerdì dalle 17 alle 19, oppure il lunedì si sfora sempre di una mezz'oretta. È un po'. Sì, ma il lunedì è più nero del venerdì o il venerdì è più nero del lunedì? Non lo sappiamo. No, ma mentre lunedì è più nero perché piove, sempre. Sì, sempre. Quattro stagioni su quattro. Infatti. Quindi cliccate sul lettore, mettete in play, ascoltate direttamente Radiazione, la diretta d'azione. Ora vi lascio con un brano che è una cover di Metallica da parte dei Van Canto, una cosa a cappella, cioè senza strumenti, c'è solo la batteria, voci e batteria, Master of Puppets, e l'appuntamento è per venerdì 7. Run! No, no, no! Frequenze di azioni in diretta. Radio Azione dopo la porta. Radio Azione, Radio Azione, controinformazioni, letture, informazioni, musica, Radio Azione, frequenze di azione in diretta, Radio Azione, Radio Azione, Radio Azione, Radio Azione, controinformazioni, letture, informazioni, musica, frequenze di azione in diretta, Radio Azione, Radio Azione, Radio Azione, Radio